Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. E questa settimana siamo così anche già arrivati a quella che è la terza parte, ormai mese di giugno pieno, Giulio Caperdoni in vostra compagnia, sia via etere sia via podcasting, avete possibilità di scelta, oppure nel caso vi basti anche solo via mail a giulio@radiorockfm.com, indirizzo da utilizzare per iscrivervi alla lista nera e per partecipare ai concorsi. In questo momento ci sono disponibili gli ingressi per due DVD recordings, quindi i vostri applausi, i vostri urletti poi si potrebbero sentire, magari anche la vostra immagine si potrebbe vedere, alla casa 139 di Milano, il 14 per Cesare Basile e il 28 per Marco Parente. Vi anticipo già che per il mese di luglio Flaming Lips. Se volete andare a vedere Flaming Lips o volete vedere biglietti di quei concerti, non scrivete, lo potrete fare solo quando ve lo dirò io, capito? Benissimo, allora direi che possiamo cominciare con la nostra consueta trasmissione di musica, libri e cinema. Ah, fra l'altro questa settimana il film è uno dei film più importanti del cinema horror di tutti i tempi, Halloween. Spero veramente che siate d'accordo con me. Sono passate ormai quasi 7 settimane da quando mia madre è morta e voglio mettermi al lavoro prima che il bisogno di scrivere di lei, così forte al funerale, si ritrasformi nell'ottuso mutismo con cui ho reagito alla notizia del suicidio. Sì, mettermi al lavoro. Perché il bisogno di scrivere un po' di mia madre, anche se ogni tanto ancora ti fa sentire violento, è d'altra parte talmente vago che sarà necessario uno sforzo per non finire col battere alla macchina sempre una medesima lettera. L'unica cosa che mi andrebbe di fare. Questo era l'incipit di Infelicità senza desideri, di Peter Handke. We'll be right back. there's only one like you. You kiss me perfectly, exactly how a kiss could be. You drive me crazy, like only you can do. Let's be alone today. Loro provengono dalla California, si chiamano Moore Brothers e sono proprio due fratelli californiani. Ce li siamo ascoltati con questo disco che esce per la Plain Recordings dal titolo Murdered by the Moore Brothers, con il brano dal titolo Wish You Say. E la voce che sentite è quella di Giulio Caperdoni. La trasmissione che sentite eclettica è la radio che state sentendo, è Rock FM, sia che siate sintonizzati sulle normali frequenze, le tradizionali frequenze attraverso cui si ascolta una radio, sia che stiate ascoltando attraverso qualche supporto digitale. Comunque si arriva in un modo o nell'altro sempre da Rock FM. Questo era un disco uscito ormai da parecchie settimane, esattamente nel mese di marzo. Invece nel mese di maggio, per la Drag City, è uscito un album a nome Found Fables dal titolo Transit Rider. C'è l'immagine, l'immaginario per essere più precisi, del viaggio in metro, strade, percorsi a piedi, ferrovie, in questo disco dal titolo Transit Rider. Noi ci ascoltiamo la traccia numero 4, che è dedicata alla velocità, In Speed. This is my parade, I'm not inviting you. troubles me. I feel I'm guilty when I see the verdant green bone dry. Sparkle in the eye is a rare thing. Ha! Ha! Ha! A sped up world leaves little room for living things. It never cooks the meals it eats bone dry. Patience tried when the old crossed the street. Ha! Ha! Ha! Let's speed up. Let's speed up, let's speed up, let's speed up. Without race and running, without race and running. Let's speed up, let's speed up, let's speed up, let's speed up. Without race and running, without race and running. Sitting in a room, staring at a wall, not seeing the wall, looking past the wall, looking at this night, inhumanly patient, waiting for some secret, silent alarm to trigger him off. Death has come to your little town, Sheriff. Technology crazy, designer babies, truly quite too far bizarre. Mad scientist dreams, funded government schemes. Brainwashing machines, those evil fiends, they won't bother me. I'm just sleeping through a pre-packaged nightmare. The rich get richer, the poor get screwed. By frozen singers packed in bags. From your local supermarket. Check best before they defrost them well. Dispose of them in a responsible manner. Beatnik Film Stars, questo è il nome della band inglese che incide per la Track and Field Organization, In Great Shape il titolo dell'album, dal quale abbiamo estratto Really Quite Bizarre. Pensate, ben 23 tracce di lo-fi pop, 23 tracce, ciascuna di queste arriva a malapena ai 2 minuti, per esempio quella che noi ci siamo ascoltati ora di minuti non li raggiungeva, ma per veramente pochissimi centesimi di secondo. Leggo qua sul display 1 minuto 59 secondi e 44. Invece ben più lunga la versione che i Thievery Corporation, in un album di soli remix, hanno fatto di Strange Days dei Doors. Questo loro album si chiama Version, ce ne sono altre di canzoni interessanti. Questa volta, come anche le precedenti, torno sempre dalle parti di Jim Morrison. missing man today. For her life is an inconstant, twisted game. But this time she would give a chance to just wandering. And if not, there's no consequence at all. Sunday Morning, il nome della band cesenate che incide per Midfinger, uscita con un album dal titolo Take These Flowers to Your Sister, dal quale noi ci siamo ascoltati Alice, che ha quasi chiuso la terza parte di Eclettica. Eclettica che si chiude con il brano che invece costituirà quella che è l'ultima pillola della settimana in corso, della settimana numero 34 di Eclettica, un nuovo brano estratto da The Demon Lessons, l'esordio per la Home Sleep delle Ian Faze, le quattro sorelline di Arcata, California, che hanno appena girato l'Italia in una formazione a due. Le due gemelle sono venute appunto in Italia, da cui sono appena ripartite, che stiamo per riascoltare con Empty Alcohol Bottle. Prima però voglio ricordarvi che di questo album tipicamente ci ascoltavamo All the Phones Are Broken in This House, ed è già pronto lì per essere trasmesso fra qualche settimana anche un terzo pezzo. Già ho discusso con più di uno fra voi della bellezza anche di questo brano, non quello che ci ascoltiamo, ma del terzo, ovvero sia 16 Weeks. Vi ricordo che invece quello che ci ascoltiamo è Empty Alcohol Bottle. And the rose that you gave me when I finally came back home has died in an empty said, is that how we are now? eclettica. Fine della terza parte.